Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione. Dal laboratorio di scrittura del progetto Voci 2018. Dopo tanti anni lontano da casa, ritorni e tutto sembra cambiato. Ma nulla era cambiato. Era solo una crudele immaginazione. Ero stato dimenticato. La mia casa non era più la stessa. Senza i miei figli, la mia camera era diversa. Non avevo più le mie fotografie con la mia famiglia, quel bel pallone con cui giocavo con i figli ogni mattina, la mia radio. Andai da alcuni amici, si chiesero che cosa volessi. Non mi riconobbero. Perché? Nessuno vuole ricordarsi di me. Ho cercato di raccontare la verità e rimasero stupiti. Ma nessuno mi credette. Mi presero per matto. Il mio corpo era bruciato dalle fatiche. Ormai non ho più niente nella vita. Mi rimane solo questa dura realtà. Intervista al rabbino Alberto Sermoneta. Questo mi fa venire in mente la storia della mia famiglia. La parte di madre, due figli, un padre e una madre nascosti dalle suore, le quali chiedevano un affitto da pagare per nascondere 10 persone, 10 esseri umani. Mia madre che mi racconta che insieme a sua sorella bussavano alle porte dei conventi per chiedere un pezzo di pane, venivano trattate come se fossero le persone, due ragazzine, 12 o 13 anni, cacciate in malo modo e trattate come se fossero la peste in incarnata. Mia madre ancora lo racconta, 87 anni, e ancora mi dice: via, via, andatevene via. La paura delle suore di dare un pezzo di pane a due bambine, decine e decine di persone trucidate, campi di sterminio. Solo uno è tornato e la memoria la trasmetteva attraverso il suo sguardo, attraverso quel numero di telefono, come lo chiamava lui, impresso sul suo avambraccio. Era il numero del telefono quando i bambini gli chiedevano: ma che c'hai lì? All'epoca non si sapeva, i bambini erano più ingenui. Quando era l'estate, per me era una cosa raccapricciante. È stato il mio padre spirituale, perché nonostante avesse perso moglie e tre bambine, 4, 2, 8 mesi, insieme a sua moglie, che non ha mai più rivisto, è stata catturata il 16 ottobre 1943 in Via del Tempio. Lui era uscito perché all'inizio sembrava che volessero catturare soltanto gli uomini, lo fecero scappare, poi quando seppe che sua moglie e sue figlie erano state prese, si costituì lui per essere portato via, ma lui da quel momento non ha mai più visto moglie e figlio. Aveva perso un fratello alle Fosse Ardeatine, fucilato, altro fratello di mio padre, un fratello di 17 anni e mezzo che si era arruolato fra i partigiani, e la nostalgia lo ha portato a tornare a Roma, dove è stato catturato, ed è stata l'ultima partenza, il 10 di maggio del 1944, l'ultima partenza da Roma, fucilata ad Auschwitz, 17 anni e mezzo, solo per la colpa di essere ebreo. Quelli che sono vissuti, mio padre, tre sorelle, una delle quali aveva perso il futuro sposo deportato ad Auschwitz, che scappavano perché purtroppo c'era gente che li conosceva, e un racconto loro diceva 5, 10, 15, si trovarono davanti un loro conoscente, col dito indice le indicava e diceva 5, 10, 15, 15.000 lire se le avessero catturate, se lui avesse fatto la spia. All'epoca 15.000 lire erano tante, 5.000 lire a persona denunciata. Quindi io mi chiedo: ma dove era la gente? Dove era la Chiesa che ha sempre professato l'amore in quei momenti? Sì, c'erano le chiese, perché alcuni parroci a rischio e pericolo della propria vita aprivano le porte. Un aneddoto della chiesa della Racelli, il parroco, amico del parroco della parrocchia della Tribuna dei Campitelli, sempre nel vecchio ghetto di Roma, disse: se suonano i signori Sermoneta, apri la porta. E siccome di famiglie Sermoneta a Roma ce n'erano tante, erano andate tutti a correre a ripararsi in quella chiesa della Racelli, pieno, ma una voce ufficiale, niente. non c'è stata. Ora grandi baci, abbracci, siete fratelli maggiori, siete fratelli minori. A volte non serve essere fratelli per volersi bene, basta essere conoscenti, basta essere delle persone per bene. Ma fratelli maggiori per il senso di colpa. Poi si va a abbracciare gli angeli della pace, gente che ha causato la morte di centinaia di migliaia di esseri umani nell'era moderna. Dove sono le garanzie per la vita dell'essere umano? Perché non si fa niente per la Siria, dove stanno morendo migliaia di bambini al giorno? Perché nessuno dice niente? Perché la gente non si preoccupa? Forse perché è distante da noi? Noi dovremmo preoccuparci, perché non serve, non ci sono distanze quando serve di alzare la voce per salvaguardare il diritto alla vita dell'essere umano. Tutti coloro che hanno sofferto e che soffrono e che muoiono perché trucidati sono esseri umani, senza distinzione di credo. Grazie al cielo abbiamo eliminato la razza, la parola razza, ma il credo sta ancora causando troppe morti. Troppa violenza c'è in nome di questo credo. E a volte la violenza non è solo materiale, non è solo fisica, è anche psicologica, è anche morale. Credo significa credo nell'essere umano. Credo nella possibilità che l'essere umano possa fare del bene. Io oggi ho dei forti dubbi di questo, su quei forti dubbi. Con l'occupazione tedesca, con la creazione della Repubblica neofascista, la Repubblica Sociale Italiana, la cosiddetta Repubblica di Salò, perché sulle rive del Garda, in località turistiche, aveva stabilito la sede dei propri ministeri, con questa fase, nell'autunno del 1943, si passa dalla persecuzione dei diritti, che pure era stata durissima, terribile per gli ebrei, si passa, come è stato scritto, alla persecuzione delle vite. Gli ebrei vengono catturati, consegnati ai tedeschi e mandati a morire nei campi di sterminio. I numeri sono stati ricostruiti per quanto possibile. Si tratta di circa 6.800 ebrei deportati, dei quali circa 6.000 sono stati uccisi, su 33.000 ebrei italiani all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta dunque del 19% della popolazione ebraica italiana. Una somma cospicua, impressionante, certo meno quantitativamente importante di quella di altri paesi. Si pensi alla Polonia, dove oltre l'89% degli ebrei polacchi sono stati sterminati, o la Lituania, oltre l'84%, la Slovacchia, al 78%, la stessa Jugoslavia, al 68%, quasi il 69%. Ma questo non deve assolvere minimamente gli italiani, i quali hanno prima accettato silenti o addirittura compiaciuti la legislazione antisemita, non ne hanno in alcun modo contrastato, nemmeno contestato l'applicazione, e che soltanto all'ultimo, quando comincia la persecuzione delle vite, in taluni casi aiutano gli ebrei a nascondersi, a sottrarsi alla cattura, ma in altri casi li denunciano per puro odio antisemita, per puro zelo di fedeltà al potere o anche per compensi di denaro. Certo è che questi cittadini italiani ebrei sono stati catturati per essere consegnati alle autorità tedesche, che li hanno uccisi, ma la stragrande maggioranza degli arresti è stata compiuta da polizia italiana e la totalità degli arresti è stata possibile sulla base della schedatura e della documentazione messa insieme dalle autorità italiane con la legislazione del 1938 e negli anni successivi. Thank you. Bassani, una lapide in via Mazzini. Quando nell'agosto del 45 Geo Joz ricomparve a Ferrara, unico superstite dei 183 membri della comunità israelitica che i tedeschi avevano deportato in Germania nell'autunno del 43 e che i più consideravano tutti morti da un pezzo, nessuno in città da principio lo riconobbe. Come faceva uno a credere, fu subito obiettato da molti, che l'uomo di età indefinibile, enormemente, assurdamente grasso, apparso pochi giorni prima in via Mazzini, giusto davanti al tempio israelitico, provenisse ben vivo niente meno che dalla Germania di Buchenwald, e soprattutto che lui, proprio lui, fosse sul serio uno dei figli del povero signor Angelo. E poi, anche ammettendo che non ci si trovasse di fronte a un trucco, a una mistificazione, che insomma nel gruppo di ebrei cittadini avviati verso i campi di sterminio nazisti un Geo Joz potesse esserci effettivamente stato, dopo tanto tempo, dopo tante sofferenze toccate un po' a tutti e senza distinzione di fede politica, di censo, di religione, di razza, costui, proprio adesso, che cosa voleva? Che cosa pretendeva? La lapide avrebbe dovuto essere rifatta, dato che quel Geo Joz lassù, cui in parte risultava dedicata, non era altri che lui stesso, in carne ed ossa. A meno che la commissione delle onoranze, accettando il fatto come un suggerimento del destino, non avesse addirittura rinunciato all'idea di una lapide commemorativa, la quale, pur offrendo il vantaggio indubitabile, posta in quel luogo di intenso passaggio, di farsi leggere quasi per forza, avrebbe avuto il grave torto di alterare in modo sconveniente la facciata così onesta, così alla mano del nostro caro vecchio tempio. E così Geo mostrava le proprie di mani, callose oltre qualsiasi immaginazione, ma coi dorsi così bianchi che un numero di matricola, tatuato sulla pelle molliccia come bollita, poco più su del polso destro, poteva essere letto distintamente nelle sue 5 cifre precedute dalla lettera J. La persecuzione degli ebrei cessa con la fine della guerra, ma questa fine avviene a tappe, avviene gradualmente. Finisce prima nell'Italia meridionale, che viene occupata dalle forze anglo-americane e liberata dalla occupazione tedesca e dalla presenza di autorità neofasciste che collaboravano con l'occupazione tedesca. Questa liberazione coincide con l'immediata richiesta, con l'immediata costruzione di un reintegro degli ebrei nei loro diritti e nelle loro proprietà. Il primo decreto, il Regio Decreto del 20 gennaio 1944, numero 26, stabilisce la reintegrazione degli ebrei nei loro diritti patrimoniali. Il provvedimento però non fu pubblicato, per scarsa convinzione o forse col pretesto, accampato da qualcuno, di suscitare ulteriori rappresaglie nei confronti degli ebrei che si trovavano nella parte d'Italia ancora occupata. Certo è che è stato necessario arrivare al 5 ottobre 1944, 15 mesi dopo la caduta di Mussolini, 13 mesi dopo la liberazione dell'Italia del Sud, perché si arrivasse a un decreto che in maniera più chiara poneva all'ordine del giorno la restituzione dei beni agli ebrei. Colpisce il fatto che l'organismo che deve occuparsi di restituire agli ebrei i loro propri beni è quello stesso EGELI, ente gestione e liquidazione immobiliare, che li aveva deprivati delle loro proprietà. C'è una gestione commissariale, ma i funzionari, il personale è il medesimo, l'organo è il medesimo. La restituzione avviene in un primo tempo abbastanza rapidamente, anche se esistono due grandi questioni che si pongono. Il primo, come condursi nei confronti dei nuovi proprietari dei beni di proprietà degli degli ebrei sequestrati dopo il 1938 considerare i loro diritti acquisiti? Il secondo, Legeli chiede che i costi sostenuti per la gestione del patrimonio ebraici sequestrati e i costi delle pratiche per restituirli siano sostenuti dagli ebrei stessi, ovvero, dopo la persecuzione, anche il danno di dovere pagare una cifra molto cospicua richiesta dalle Geli. Si apre una questione che sarà risolta in maniera un po' all'italiana, e cioè si decise di lasciar correre, considerando che probabilmente le Geli non avrebbe mai avuto il coraggio di andare a intentare una causa contro delle vittime per avere i diritti di ciò che in realtà era loro dovuto. Dall'altra parte, gli ebrei, di fronte alle difficoltà, pur protestando vibratamente, decisero di guardare in avanti e, probabilmente per una scarsa fiducia nella magistratura, non intentarono a loro volta cause. Ci fu una lunga trattativa tra Legeli, Luci, Unione Comunità Israelitiche, oggi si chiama Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e Ministero delle Finanze, con l'invito agli ebrei concertato di non pagare i diritti a Legeli. Lo Stato, da questo punto di vista, fece in modo che le cose procedessero, anche se con una serie di passaggi piuttosto umilianti. Ad un certo punto, per esempio, viene chiesto ai commercianti ebrei il pagamento delle tasse sui profitti di guerra. Il commissario governativo dell'Unione delle Comunità Israelitiche si rivolse al presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi, il cui ministro del Tesoro rispose, cito: «In tale stato di cose non si ravvisa la possibilità di concedere ulteriori agevolazioni, in quanto la semplice circostanza dei danni subiti per effetto della guerra o delle persecuzioni razziali non è sufficiente a giustificare una sospensione a priori della procedura di accertamento dello straordinario tributo. Occorre esaminare le singole situazioni di fatto per stabilire la rilevanza del danno ai fini tributari e più precisamente nei confronti dell'imposta straordinaria in questione. Ciò ostante, le lamentele mosse non hanno ragione di essere». Questo è il clima nel quale avviene la restituzione, il reintegro nei beni, nelle proprietà e nelle posizioni professionali. Un'ulteriore disciplina delle restituzioni venne stabilita col decreto del 5 maggio 1946, numero 393, e quindi si pose nei periodi successivi il problema di quei beni più difficilmente ricostruibili, e cioè i beni mobili da una parte e dall'altra parte i beni delle persone che erano rimaste uccise durante le persecuzioni, durante la Shoah. Per quel che riguarda le persone senza eredi, si individuava come destinataria l'Unione delle Comunità Israelitiche, ma si rivelò comunque di difficile applicazione. Soltanto nel 1955 vennero estese ai perseguitati per motivi razzistici le provvidenze stabilite per i perseguitati politici, e si sarebbe dovuti arrivare soltanto alla legge del 16 gennaio 1978, numero 17, per stabilire che la qualifica di ex perseguitato razziale per i cittadini di origine ebraica sarebbe stata riconosciuta come di pregiudizio fisico, economico o morale. In sostanza, bisogna aspettare il 1978 per vedere riconosciuti per legge gli ebrei quali vittime della Shoah. Questi dati oggi spaventano, fanno impressione. Sembra impossibile che si fosse arrivati a tanto. Comunque, resta impossibile stabilire il danno completo. Una quantità di beni non sono stati ricostruibili. In particolare, è impossibile ricostruire l'entità, sicuramente cospicua, si sostiene, del valore di gioielli, argentenia, denaro liquido e ogni altro bene facilmente asportabile. Anche perché, come ha scritto Fabio Levi in un suo lavoro sul reintegro in Italia degli ebrei italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, esistono delle cose che sono luogo di serenità, il cui valore venale non è stabilibile o è nullo, ma hanno dei significati simbolici enormi. Questi sono andati completamente persi. dal laboratorio di scrittura del progetto Voci 2018. In piedi di fronte a una lapide, leggo il mio nome. Questa è l'unica casa in cui sono potuto tornare. Questa è l'unica identità rimastami. Su di una pietra mi viene restituito un nome senza corpo, in cui non riesco più a riconoscermi, di cui sono geloso. La mia pelle marchiata di animale è invidiosa di quella pietra levigata con lettere d'uomo. E allora vorrei deturparla, vorrei cancellarla scrivendo con acqua, terra e sangue, incidendo con sassi la matricola assegnatami in quell'inferno dell'umano da cui non sarei dovuto tornare. Forse allora riusciranno a guardarmi, a ricordarmi, a ricordare nomi, volti, ossa, occhi, e io con loro. Ebrei? No. Ci chiamano così, ma non lo siamo più. Siamo soltanto un unico grande numero indefinito. Tanti, troppi, ci elencano ma ci arrotondano perché non possono darci sepoltura. Non sanno nemmeno dove trovarci. Eppure ci siamo, restiamo, nei luoghi a cui abbiamo dato vita, nelle persone con cui abbiamo scambiato un semplice saluto. Guardo le mie mani gonfie e ruvide e mi chiedo chi mai vorrà stringerle. Chi mai riuscirà a sentire su questi calli la cenere, i fumi, i denti, gli occhiali, i capelli, i vestiti, il fango, il sangue, il cibo, gli escrementi, mio figlio, mia moglie, le preghiere mute ad occhi chiusi perché in cielo e in terra non c'era più posto, l'atroce rassegnazione al fallimento dell'umanità, la disumana speranza di chissà di morire. Voi mi guardate e credete che io pretenda di essere ricordato per elemosinare attenzione sulle sorti della mia gente, crogiolandomi nel racconto di mostruosità folli, impensabili, usando la crudeltà come scala di valutazione al mio martirio. Io non credo. Io non credo in un Dio che muore per voi uomini. L'unica vera follia è l'incapacità di dimenticare. La mia memoria e i miei ricordi si rincorrono per riuscire a non toccarsi mai. Voi ascolterete e poi uscirete dal mondo di orrore creato per farvi sentire più umani. Io abiterò quell'orrore e lì saprò di essere a casa. Nel foyer dell'Arena del Sole, dal 21 febbraio, è presente l'installazione Lupo Ezechiele e il gioco delle tre stanze, ovvero sia la permanenza del pregiudizio. Questa installazione fa parte del progetto Voci 2018 e da mese di febbraio l'installazione ha avuto tre trasformazioni. Le abbiamo chiamate tre stanze che ricordano chiaramente le tre casette dei porcellini che il Lupo Ezechiele, guarda caso, cerca di buttare giù riuscendoci. Dal 21 febbraio la stanza era titolata Occultamenti mascherati. La seconda tappa, visibile dal 19 marzo, aveva come titolo Adesso che cosa vogliono? Che cosa pretendono? Chiaramente riferita al ritorno degli ebrei nel 45 a casa. Questa era la domanda che sotto traccia spesso emergeva. Dal 9 aprile la terza stanza ha per titolo Occultamenti velati, ovvero sia quelle espressioni di antisemitismo negli ultimi tempi che sono state celate, ammorbidite, ma che testimoniano una forte permanenza di certi pregiudizi. L'evento finale di Voci 2018 ha per titolo Il Gran Lupo Cattivo. Si è scelto questo titolo ironico per ammorbidire chiaramente questo tema così forte quale la legislazione razzista, ma soprattutto quello che è accaduto dopo l'abrogazione della legislazione razzista. Riguarda i nostri tempi. Il Gran Lupo Cattivo è l'evento che il 25 aprile si svolgerà dalle ore 16:30 fino alle 20:30 in una zona della città compresa tra via Finzi, la sinagoga e via Gombrutti. Si accederà all'evento dal voltone di via Porta Nuova, dove il pubblico potrà accedere scaglionato in piccoli gruppi all'interno di via Finzi, da qui passare all'interno delle sinagoghe e uscire quindi in via dei Gombrutti. Thank you. Sono Aurelio Zarrelli, docente di musica applicata presso il Conservatorio Martini di Bologna, a cui è stata affidata la realizzazione delle musiche del progetto Voci 2018, insieme agli studenti del triennio e biennio. Per il progetto è stata richiesta musica elettroacustica, ovvero musica creata con l'ausilio di tecniche di manipolazione dei suoni e sintesi, e musica strumentale, specificatamente per clarinetto e violino. La diffusione della musica si svilupperà in 4 momenti e in maniera diversa ognuno. Il primo momento musicale si ascolterà dalle cuffie wireless che verranno date al pubblico. La musica accompagnerà il percorso che ogni gruppo farà per arrivare all'ingresso della sinagoga. Il materiale sonoro evocherà suoni concreti, ovvero suoni ripresi dal mondo circostante, con elaborazioni e manipolazioni tipiche della musica elettroacustica. Terminato il percorso, all'ingresso della sinagoga si troverà un clarinettista che continuerà ad accompagnare il pubblico, sviluppando alcuni temi già ascoltati in cuffia. Scendendo poi nel tempio piccolo della sinagoga, una violinista suonerà musica liberamente ispirata alla tradizione della funzione ebraica. Infine, quando oramai il brano del violino sta per terminare, ci si recherà in uno spazio interno della sinagoga, dove, a commento e narrazione del video proiettato, la spazializzazione del suono in quadrifonia troverà coinvolto il pubblico stesso nelle immagini, incuriosito e trasportato dalla direzione e dal rincorrersi della musica. La musica, come si vede, è l'asse portante di tutto il progetto, ragion per cui l'attenzione a creare, scegliere e trovare materiale adatto non è stato facile. È stato importante documentarsi per ispirarsi al colore e al calore particolare che a volte la musica ebraica trasmette, anche se il lavoro creativo dei compositori risulta assolutamente originale, personale e soprattutto coerente con le esigenze richieste. Dico coerente perché fare musica su elementi extramusicali come il movimento, la parola, l'immagine, tutti elementi presenti in questo progetto, è la caratteristica propria della musica applicata, perché ci si trova a lavorare su emozioni che verranno narrate, amplificate e sintetizzate dalla musica. Per l'occasione, specificatamente per l'intervento violinistico, ho dovuto necessariamente fare riferimento a musica della tradizione ebraica, e spiego anche perché. Il violino suonerà nel tempio piccolo, dove si svolgono le funzioni religiose, per cui ci troviamo in un luogo di preghiera e di meditazione. In generale, il carattere della musica è stato volutamente ed anche forzatamente, per richiesta del regista, rivolto a suscitare emozioni serene, pacate e a volte ironiche e grottesche, senza mettere in risalto il senso del dolore che il tema dell'antisemitismo, ahimè ancora oggi presente, naturalmente ci trasmette. Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione.